sono i dolori? Sì, ancora no, sono sotto il dolorifico ancora. Bel casino, beh. Sì, sto mettendo 3 volte al giorno Voltaren e più sto pigliando la tachipirina per i dolori. Perché la tachipirina? La cosa non è per somigliare, l'occhio non la posso prendere, no? E poi non mi va niente, anche l'ho provato. Bel casino. Oh Dio. Così resta. E beh, bravo, rientrando sta. Neanche un quarto d'ora faccio di tratto, infatti mi sto sistemando. Beh, non si sente nessuno. Qua no. Allora sì. Dopo ti mando un messaggio. Quando vuoi. Nel numero di là non ce ne frega niente. Perché siamo qua. Ok, ok, Anthony. Ho letto il tuo messaggio. Va bene, va bene. Mandami magari un altro messaggio quando arriva qualcosa, capito? Va bene, va bene. Tutta l'uovo, guarda mai, la male lo butto, i cosi delle braccia e i polsi, ma l'ha detto a me che mi si è messa per la mano ai colleghi a tirare un paio di cavi, mi guarda di male, tutti rossi. Qua, io sono ancora due volante, sto cercando quell'affare che ti ho detto, sto cercando, ma non lo vedo, via Maia la ciappo e in occhi. Sì, già, se lo trovi già, se lo cerchi già lo trovi. Infatti adesso vediamo un po'. Normalmente gli tira giù questo maledizione. Aia, non è domeno. Ma cosa provare così? Allora, lei fa 2 ore di semo, Juventus Barcellona. Attento Mastro Giulio, stai meditando? Deve essere meditazione, Giulio. In preghiera deve essere. Mastro Giulio, attento Mastro Giulio. E beh, è stata lì. Cos'è? Hai abbassato la potenza? Come dice Montalbano. No, mi fa morire quel medico legale, allucinante. Quando lo telefono, due parolacce di lì. Lì è un grandissimo cornuto, Montalbano. Viene qua a rompere i camadicchi. Allucinante. No, io già lo guardo. Vabbè, adesso oggi ci dedichiamo allo sport, che c'era la Champion. Ma ti stavo aspettando a Marco Giulio a vedere se aveva già visto la formazione. Ma sta meditando, è in ritiro lui, capito? Male, allora, certo che sì, spero che abbassi il volume, che stavo ascoltando, bene mera, così è nato lì, è proprio così, non c'è niente da fare. Ma vabbè. Vedete di morire, quindi la tapiniera che ora sono le 6 e 2 minuti, molto bene. E mi adesso fra un po' entra, sono andato a prendere 2 cosette, sicuramente è andata a trovare la fidanzata a Patamoa. Allora con c'è la fidanzata, capito, va a trovarla tutti i giorni. Ho fatto la madre l'altro giorno a conoscerla. Bisogna dirglielo, via Lidio, se ce la presenta, se non si rompe anche lui, Camagicchi, da poco di soppa, attento Marcolino Condo, noto Ratta Pignara. Questo si sta sporcando, la solata, sta oggi bene stamattina. Si sta sporcando la serata, cioè c'è una perturbazione in arrivo. Il fine settimana, che se domani c'è il mercoledì, domani così, domani mercoledì, domani abbiamo le visite mediche, domani mattina sotto casa di Gianni alle 7:30, bella rottura di palle, manco colazione posso fare. Invece non lo facciamo, obbligatorio, è così, purtroppo è così, mi devo fare anche richiamo del vaccino, poi c'è sangurine, per la prossima settimana ho tutte le altre visite. Domani mattina faccio una colazione, la mazza di Neva e della Torsalis. Oggi è bravo, io tutte le volte è abbastanza veloce. Anche con l'infermiera che c'è, non so se dottoressa, boh, chi è, comunque anche quella c'è brava. Subito immediatamente, toglie il sangue, capito? E ce ne andiamo in fretta a fare colazione. E poi devo tornare al lavoro. 7:30 c'ho queste visite, poi devo tornare al lavoro. K. Questa lì è una più bindaccio, aveva passato la cena burro, mamma mia, questa sera c'ho il bindaccio, a cena e guardare la partita pure. Allora, mio genio, sta il bindaccio, era Juventino, ma era di Juventino. Un milanista, un interista, un Juventino si è scelto. C'è Filippo stasera con la bandana, seduto vicino a me, mi ha già messo la bandana. Allora, ho fatto la proiettata al collo della Juventus, lui è Juventino, capito? Sta lì seduto ascoltando, non fanno gol a Baia. Telefono, tutto a telefono, siete stasera che Natalino, telefonami. Mi ha chiamato Antonio Gobbe stasera, mi ha fatto un po' di reggiati. Che mi ha chiamato Antonio stasera, Antonio Gobbe, mi ha fatto fare due reggiati. Allora, dice che Antonio ti sei sentito male uno, e hanno chiamato l'ambulanza. È arrivata l'ambulanza e fuori dal tramite nella panchina c'era Falcone, capito? C'era Falcone a Capobasso, sai che pare malato, no? Pare sempre che sta morendo. Invece di caricare a Guido ne hanno caricato a Falcone, si c'era e doveva andare a appoggiarsi l'ambulanza. Ma come ve l'ho raccontato a voi, guarda, allucinante, c'è, per carità di Dio. No, era lavoro lui, capito, è capitato lì, ha visto questa cosa. E mi ha chiamato, no? A dirlo. Ma tu mai si portava a Falcone, invece buttati chi su che era morendo. Proprio rutto. Ma genio non sente giù oggi. Attento genio. Il genio per la lampada. Io sono entrato da uno dei cinque. Dal Corrello. Ho acceso un po' tutto. 5:30. Ho sentito il tuo bibbi e sono entrato. Capito? Vabbè, adesso iniziamo a rientrare anche un po' più tardi. Me lo danno martedì, venerdì, lo stesso. Però anche se non c'è rientro, mi trattengo sempre l'ora in più, capito? Fa sempre comodo, quando 200-300 euro in più a fine mese, giusto per comprare qualche radio, qualche tronzata, si può impiccare la radio. Ti sono buttati, cazzo, quando guardo qua, mi viene la disperazione, senza bendare sulla venata delle capicciurie. Un culo mi ha fatto per mettere le antenne, cazzo, per carità di Dio. E io via. Non lo so, solo lì sopra ci sono. Il rotore, cavi, antenne, balle varie, capito? Un culo mi avevo fatto. Avevo proprio deciso di abbassare la testa e finire tutto. Perché la radio, grazie a Dio, non manca. Però, quando voto un blu non mi viene la disperazione. Sono debuttati, perché non ne frega più niente. Perché adesso sono montate, sono lì. Cosa fai? Io non pulire, smonterò intanto, si viene tutta. Quando non fate vita, perché c'è tutto quello che serve, non lo usa. Se non che radio, lui si mangia un paragno, non è portato a poco. Il kiwi se ne rivendi. Ma lo so, per lì. Io non sono ricco, però ho fatto sempre grandi sacrifici per stare al passo. Mi ero deciso veramente di stare al passo, invece mi è passata la gara di tutto. Invece di stare al passo mi è passata più la gara. Capito? E ho per pazienza. Comunque, quando chiacchiero non ho paura di nessuno. C'è tutto, anche l'amplificatore, l'antenna. Grande, perché io, anche se non parlo, sono sempre in ascolto, non è che faccio la comparazione rispetto agli altri che trasmettono, capito? Segnali di loro e segnali miei, quindi non ho paura. Anche ha finito. Anche che arrivi della mamma mia. E anche l'attacca, avrei seduto. Così posa. Però non la seguo vinto, non si posa, perché di cazzo si arrivi davanti tutta la lima, anche non mi hai regalato manco un cioccolatino. Un po' come andato. Di musica già dei morti, anche non voglio giocare, capito? Ma è allucinante. Allora, le volte va. Bisogna attaccare le volte. Sì. Sono quattro mattonelle per posarsi. Ah, e poi una bandana della Juventus, già lo godo, e vanno a bruciare, e via, e me, è un po' che non chiede, tu arriva mia figlia, la gente arriva, lo babbo c'è la gira per la battita, io ogni volta che che c'è Mario, ecco, mia figlia a casa ha rotto il tavolino, il tappeto, ma ci ripuga tutto perché sta tutta la sera saltando le sopra. Sì, sì, non lo molla un minuto, così, non lo molla per niente proprio. Capito? Non lo molla per niente. Lo vedo. Ci sono stamattina con mia moglie, esce la mattina con mia moglie. Ce l'ho portata mia moglie. Porta in giro, fa fare una passeggiata tutte le mattine, verso le 10, le 11, perfetto. Portava tutti il regno, la guarda, la studia, la chiesa, era contento. Soprattutto quando c'è quel venticello, non le piace a me, ma quando va a caso, non vuoi sì, capito? Oppure a quest'ora mi le piace, vedi? Adesso non c'è più il sole, a lui le piace uscire a passeggiare, a rompere le palle ai passeggini. Che allora dei passeggini con i vestiti siete fuori sopra, non c'è Cristo. A me le piace un bel bambino, però ci sono quelli che non hanno paura, certi che hanno paura e allora non lo faccio avvicinare, capito? Se no se ti vede di rendere i drulli, se ti vede di rendere i drulli ti omoscheggia. E allora, uno qua un giorno l'ha visto che hanno i drulli. È andato correndo, lui ha musicato tu, gli ha detto, ah, te lo voglio tiri tu, io tiralo tu, tutta la gente, non vuoi che mi fanno camminare. E ma a parte quello, un'altra lì, il problema è mangiare, devi stare molto, molto, sono molto delicato di stomaco, molto mi. Io finalmente ho scoperto queste crocchette che fa una. Le fanno praticamente te le portano a casa, non le compro più alla casa degli animali, capito? Le fa una ditta che fa i mangimi, capito? Le fa le crocchette per te, le fa come vuoi tu. Adesso questo mese gliel'ho fatto fare misto, carne e pesce, metà e metà, capito? Li mangia volentieri, carne bello sano, prima quelli che compravo alla casa degli animali che costano il doppio, perché a me un sacco da 25 kg mi costa 30 euro mi fa, da 25 kg, dico un sacco da 15 kg costava 40 euro, capito? E sono secondo me, a volte mi vomitava, stava male, con queste qua, sono me la già azzeccata, e non lo cambio più. Allora, questi sono proprio dei ceci, cioè presenti i ceci prima di metterli a bagno, no? Che sono piccoli così, proprio ceci, hanno la forma dei ceci, e sono fenomenali, li digerisce bene, tranquillo, infatti sta facendo tre pasti al giorno, stava facendo adesso due perché c'è una gara dove fare, sono tre pasti al giorno fa. Circa 2-4-600 grammi al giorno, più di mezzo chilo, non mangio al giorno. E un pochino, doveva stare intorno ai 35, era quasi 37, e quindi adesso l'ho pesato l'altro giorno, mia figlia è 35,7, 35,8. Adesso sta rientrando nel peso suo, capito? E dopo questo mese, di Coludora lo faccio partire di nuovo a 37-38 kg. Prego, prego. Avanti, avanti. Oi, buona, buonasera. Sera, buonasera. Natalino c'è, mi lo senti? Oh no, ho sentito a te, io ho acceso adesso. Ciao Natalino, so se mi ascolti. 6-9, a voglia. Segnale essere importante, 9 a picchi positivi, positivi. No, io va bene anche questa, a voglia. E beh, quella storia è arrivata, è arrivata. Allora, a posto, va. Va bene, va bene. Avanti, capo di Bugliè. Io. Dovrebbe arrivare domani. Dovrebbe arrivare domani. Va bene, va bene. Così abbiamo lavoro per il fine settimana. Ma se vi serve una mano, io da venerdì, io lavoro giovedì, poi venerdì ferie, che rientro mercoledì, se vi serve una mano, me lo dite. Chi è che male? Se mi dice tu, venna lì, dovremmo direttamente venire a sera, con la speranza che arrivi domani. Se ci sei tu, hai più braccia, perché lì mi serve uno che mi mantenga nel mezzo del tubo. Capito? Io e dicendo, io e Natalino va bene, ma ci abbiamo Antonello che ha le braccia corte, è andato a Pignara che poi da si tocca legare lui al palo e tirarlo su. Poi io, vabbè, i cazzo di in 4, ragazzi in voi, passa mezzo chilo l'antenna. No, non è così, non è così, Massimiliano, c'è un lavoraccio lì, che ne esce almeno in 3, però 3 che hanno un po' di forza, capito? Perché non è così. Prima sembra la terra, tirarla su, sollevarla di 2 metri e innestarla dentro una staffa che c'è già attaccata al muro. Poi, una volta innestata lì, bisogna mantenerla dal piano di Natalino. L'altro deve salire al piano superiore e attaccare la staffa palo palo all'altra staffa che c'è già. Capito? Non è così facile, no? Mi state attenti. Perché se ti scivola l'antenna facciamo l'anno, sia in terra che l'antenna busi faccio. Così è Natalino, il problema è che l'antenna c'ha 1,30 m di radiali, quindi bisogna sollevarla in modo che non tocchino i radiali, capito? Tutto lì. Andava via, lo smetto buono ce l'avete, sì? Sì, lo smetti professionale c'è Natalino, 1 metro sono i radiali. Voi misurati, Marco, c'è la Marco 49 metro, da 1 metro se ne va via. Va bene, ok. E cosa c'hai di rosmetro, Natalì? No, della va bene. E capita che venga anch'io, porto anche il mio, allora va. Io c'ho il CN801 HP3. No, vabbè, io c'ho quello, il 700. Quello del microchat, lo stesso, no? Devo staccare tutto, c'è illuminazione, tutto, così, già una vedi le rosmetri, lo smettiamo, lo appoggiamo in te, dritta e la smettiamo, capito? Non c'è problema, e poi si tira su. E il telefono da facciata, no, oh, Massimiliano, ma è uscito, c'è già una staffa, quindi bisogna sollevarla ai 2 metri e innestarla dentro quella staffa, poi mantenerla, bisogna salire su all'altro piano, uno deve mantenere sempre lì, continuare a tirare su gli elementi sino a quando ce n'è, farlo uscire fuori dal tetto e poi mettere la saetta, praticamente, che è una staffa paro paro che va a mantenerla ferma con l'altra staffa esistente, capito? Ma bisogna fascitare tutto prima di... esce un bel lavoro se è fatto con molta attenzione. Sì, ma voglio capire, ma lì si lavora dalle finestre o ci sono terrazzini? Alle finestre per lavorare, di problema. Prima la terra, una volta che è assemblata, si tira su e si innetta nella prima staffa. Poi dalla finestra del Natalino bisogna mantenerla, perché sennò ti si gira. Ok, uno deve stare giù a piano di Natalino, l'altro deve salire al piano superiore e mantenerla e staffarla, sempre tutto dalla finestra, sul tetto non ci possiamo salire, capito? Tutto dal balcone bisogna fare, da 2 finestre dobbiamo lavorare. E quello è il casino, quello è il casino. Dove ti vai tu a mantenere l'antenna e mettere anche la staffa? Sono delle staffe particolari che abbiamo studiato, non è buccia di gioco, no? Viene bene, quando lo vedi sennò poi gli altri copiano, capito? Anche se c'è uno esperto è andato, non ha bucato bene. Kappa, va bene. Le cose bisogna studiarle, abbiamo fatto sopralluogo, l'abbiamo studiata, abbiamo visto che cosa c'è da fare, cosa c'è da comprare, è già tutto montato, le 2 staffe sono già tassellate, al tassello chimico già pronte, capito? Una sopra, al terzo piano e una sotto. Al primo piano, capito? Quindi sono 2 metri di baro e ho Massimiliano, ho altri 2 elementi che sto portando io da innestare e mandare su, se no non ce la facciamo uscire dal tetto. Sì, ma quello che voglio capire, l'antenna si piazza giù in strada, giusto? Sì, non ce n'era fastidio perché è un vicolo chiuso, si piazza, si addrizza e si tira su. Ma tu, Natalì, per intenderci, sei dopo il tabacchino a destra, Natalì? Natalì, ma non sente Massimiliano? No, ha fatto un po' di bip strani. No, non è lui quel bip, no. Quello bip di radio modificata, non è lui. Però stavo dicendo, sì, di fronte al tabacchino, nel vicolo chiuso c'è di fronte al tabacchino. Cosa è Natalì? Sì, cos'è? Natalì, ma siccome è lì? Ma lì funziona il microfono, è attaccato all'altro. Non ti funziona il microfono il MB4. Ah, lascia questa che è più forte. Sì, più forte di chi? Ma qui non lo puoi mettere questa radio come MB4. Ma casotto, perché questo c'è lo spinotto a 8 pin, mi sembra, questo qui. E invece quest'altro è a 4, non da è un casotto. Quello c'ha lo spinotto 8 pin, ma dall'altra parte ne ha uno a 4 però. Eia, ma nell'MB4 ci ha attaccato quello del presidente. Ah, giugavitta, KK. E va bene, va. Ehi, no, io più o meno lo so dove lui, perché lì un paio di vie prima ci abita la zia di mia moglie, capito? Che sicuramente magari Natalino conosce pure. Ehi, boh, non lo so, quella. Ehi, è morto il marito un paio d'anni fa, un 3 anni fa, là. Lei si chiama Angela. Anche tu, La conosci Angela? Mi dica, il fratello lavora al mercato lì, che vende il pesce. Parente di mia moglie, è la sorella di mia suocera. Che cosa, Massimiliano? Dicevo lì vicino dove abita Natalino, qualche una via prima mi pare, o due. Abita la sorella di mia suocera. Ah. Ciao Eugenio, ciao anche Gianni, ben rientrato. Avanti, c'è anche Massimiliano e Natalino. Ehi, ehi, tutto a posto, tutto in ordine. Hai capito Natalino chi è? Sì. E via Mela, per farti capire. Quant'è via Mela? Via Mela abita lì, io Viottolino stretto. Non lo so, quasi sia lì vicino a Natalino. Cazzo, senti cosa vuoi dire, Claudio? È un paio di vie prima di lui. Ciao, Eugenio, buonasera, ben ascoltato, riprendi. Ehi, che si dice, beh. Appena sgocciato ci stiamo bevendo un paio di queste moletti a malto brunito. Quella birra rossa, là. Perché voi... Mamma, aspetta che abbasso il WhatsApp. Ho detto, perché... cosa dovete dire? Ah, la partita che viene Carmino stasera per lei. No, volevo sapere se la davano a Canale 5 e basta. No, non deve nessuno. Però già me la guardo io. Sì, fino a che tu, il problema c'è. Non è che da mania però me. Chiaro già che mi zucca con i piedi, non con i mani. Stavo sempre aspettando questa chiamata, boh, va bene, là. Quando vuoi, hai capito, oggi. Io venerdì lavoro giovedì sera, tutto il giorno giovedì e poi da venerdì fino a mercoledì feriozze. No, adesso non ne asciugano, devo essere sincero. Adesso mi sto bevendo queste birrette, così una me l'ho già fatta, adesso me ne faccio un'altra e poi ci bevo due bicchieri di vino mangiando. Io so che va già di lì perché c'ho il vino anche buono, ma devo fare le analisi domani. Ma c'ho le visite mediche, quindi niente vino. Stasera in bianco, si sa mai magari a Ugolestero da Milli. Vai, mamma. Ma è tanto Ugolestero, è un gran salminaggi, No, io sono perfetto, no, sono assolutamente tutto a posto. Quello non c'è mesi fa, tutto a posto. Anche più basso della norma. E dove mattina alle 7:30 sono lì sotto casa tua già. Ehi, quando muori a tesi buona, è buona a te, futtibini. Da Sara, da Giovanni. Ehi, noi tutti li siamo 8, primo gruppo di 8, 8 siamo, non è iniziato già da oggi, 8 oggi, 8 domani, 8 13, sino a venerdì, a gruppi di 8, è lui il nostro medico. E tu sei contento, ma intanto vai già al testamento, capito, la mazza te ne varia. Così, fatti pure a passaterra, puro. Ecco, Camuro. Passaterra, così che andavo a ciabatte e scappavo a circolo, capito? Ciao Massimiliano e c'è Eugenio, dai, mi sono andato adesso perché non mi hanno dato la possibilità. Ciao Gianni, ben sentito, avanti B2. Ti la guarda la storia, chiaro. Ma tu sei B2 o B-Zona? Ah, capito. Eugenio per i compagni. No, Eugenio. Ecco, Empoli. L'importante è che non ti chiamiamo Benito. Ora entra la Pignara, ciao Benito. Oggi il lineare lo mettiamo? Un lineareto lo mettiamo sotto? Ma che l'ha detto questa cazzata? Sì, chi l'ha detto questa cazzata che c'è un baffotto? Ma lasciala Billy, che via. No, non c'è per far furgone. Allora, ti devo dire una cosa. Che con Sandro a volte abbiamo fatto le prove, no? Senza essere attaccato quando usava il furgone. Che faceva, si via tre sciacchi, tutto a posto, eccetera. Quando faceva Piazza Colombo, proprio di fronte al cristallo, lui spariva. Era proprio solo di radio, niente segnale. Lui quando passa lì, Piazza Colombo, vicino al porto, mi arriva segnale 5. Ma guarda, io la verità, io ieri non sono voluto entrare, mi stavo ascoltando. Però era, boh, intendevo tutto un abbrutto. Perché ha toccato il microfono, capito? Ma se non lo tocca ci va bene, la verità. Ma quel lineareto ti serve per quando vai un po' più lontano, capito? Tutto lì. Va bene, riprendi doppio. Doppio, Roma, c'è il telefono, sì. Mamma mia, come sto? Oi, Alghi, a tua voce con Maiglia. Ma anche tu sbarca la suriglia, scaccio, va lì. Pace Cicina. Allora ciao Vale, buonasera, per sentito. Questa partita ti ha salutato Eugenio, questa partita è alle 8:30, 9:15. Siamo in campo. Juventus Barcellona, canale 5. Adesso go poco contento. Tu sarei da Biglia. Dillo a tutti. Ha bucato la Romana, caro Barcellona, non è vero. Barcellona c'ha un difetto, che c'ha un buon attacco, ma non ha difesa, invece la Juve c'ha attacco e difesa, e un quattro attaccanti Juve stasera, giupa! Dai, sono contento se vince la Juve, va! Massimilia, non stai giocando col Sorso, Barcellona è la squadra più forte al mondo assieme al Real Madrid, capito? Però non la teme la Juve, temono più loro la Juventus, capito? Che vedi Bala, Mandzukic e Higuain attacco, con Cuadrado a destra e Dani Alves a sinistra, adesso duro i voti. E attenzione che la Juve è la miglior difesa in Europa, non è campionato in Europa. Queste sono statistiche scritte, non lo dico io, lo dicono i giornali a livello europeo. Perciò se noi facciamo due gol a Torino, perché a Torino non passa lo straniero, che sia la squadra più forte del mondo, a pesce il Real Madrid, a Torino, il Real vicino peggio a Barcellona, perciò non ci sono problemi. Se noi partiamo con due gol da Torino e diciamo 2-0, noi 4 gol dobbiamo prendere a Barcellona, non li prendiamo. Vabbè, là, tu stai parlando proprio del classico Juventino, là. Vabbè, chiudiamo questo discorso, se no la gente qua se ne va. Avanti, Natali. Io sto parlando da sportivo, sportivamente parlando, capite? No, mentre Luca non è interista, è andato a pigliare Crotone con l'ultima classifica. Grazie via. Gianni Alves, quello giocava nel Barcellona stesso, no? Ha giocato nel Barcellona, Real Madrid. Lascia perdere. È una bella partita, perché stiamo parlando di squadrette da niente. Stiamo parlando della Juventus che anche quest'anno 6 volte campione, vince il campionato, capito? Vince la Coppa Italia e non lo so se vince anche la Champions, quest'anno fa la tripletta. Non lo so. Ha comprato quei giocatori per essere competitiva in Champions, non in campionato. Il campionato si gioca a tutti. Va bene, Valerio, è tanto, come sa voi? Domani arriva, non ci avevano il cavo Valerio, quindi era inutile spedire l'antenna senza il cavo, visto che aveva già pagato, ha aspettato che arrivasse il cavo, adesso domani arrivano, già spedito, capito? Non spedito il cavo e l'antenna. Ti ascolta basso. Cazzo, c'hai una manta, vai, sì, ancora con il suo trabicco e antenna, sì, buh. Ti hanno regalato questa manta va turbo, sì, ancora con questa energia. Ma fatela dare in monta, la io e Bocani che sono trabicco che va in attacca a Bifuria. Te la sollevi un altro pochino che tu sei proprio un buco lì. Avanti, chi c'era? Gianni, Natalino, io là, riprendete. Ehi, cosa riprendo? Ma lui io non lo sento purtroppo. Vale, ti saluta Natalino qua alla Sassari. Claudio è andato a dare a mangiare al cane. No, che mi ha disturbato mia figlia. E meglio ancora, Non ho compreso che la 5 e la 1 sono le migliori, in assoluto. Prima di intendi turbo, chissà cosa pensa, una gaggata e s'antenna. in 3 mesi io lo metto per fare 3 kg di belle e radiate. Vale, io lo dico in gergo capito, non è un'antenna che ha grandi, come si dice, beh, nel tempo io ne ho cambiato 2 di Mantova Turbo, capito? Ne ho cambiato 2. Forse tu abiti in una zona diversa dalla mia, ma qua sono rotti tutti i radiali, li avevo tutti rimessi nuovi, uguali, con i tappini, fatti a misura, comprato il tubo vuoto, uguali. Dopo neanche un anno, di nuovo, ne sono rotti tutti i radiali. Ho preso la giovata a pezzi, il piantone l'avevo lavorato un radiomatore per farci un'antenna verticale e mi sono comprato la Mantova 1. La Mantova 5 mi è durata 12 anni sul tetto, capito? Questa c'è già 6 anni, 5 anni ed è nuova come il giorno che l'ho piazzata. Avete una gatta, mia figlia Alessia ha preso tutte e 6 gatte, già i fornelli, capito? E quindi fra un po' 7:30, 8:20 mi tolgo a mezzo i piedi il cane e poi TV e boh. Avanti tata lì. Eia, sono qua. Ma sei qua o qua? No, qua, sono qualche altro. Ah, ecco, perfetto, bravo Natali, perché ce n'è un bel qua. Capito. Gianni, hai finito il telefono? Grazie Gianni, sempre il telefono. Vabbè, genio, riprendi. Che Dio ti intenghia. Se pensi la Juve 4-0 ti puoi venire in radio, tu lo dico io che ti puoi venire in radio. Anche ho trovato il mio fratello, era la macchina della Gasatoia. Sono vendicativo con chi dice queste cose. No, non può perdere. Poi se non partita la 0-0, ma la Juve in casa no, non c'è per nessuno, è troppo forte. Me l'ha dimostrato, 32 su 32. Capito? Chi passa a Torino, è venuto a là. Pesini e bu, pesini. Va bene. Gianni, non riprendi Massimiliano. Ricordami cosa ha fatto l'andata 2-0, vinto? Al quello col Porto. Il Porto ha vinto sia a Torino e sia a lì, capito? L'ha eliminata. Ha vinto 2-1 lì. A Torino ha vinto 2-0. Questa è la semifinale. Qua è scontro diretto, chi perde esce. Gappa. Va bene. Ma tu, Eugenio, la sala la differenza dalla 5 alla 1 alla turbo? Sì, la 1 alla 5 ce li ha in fibra, la turbo ce li ha tutti in alluminio, ma non è quella la differenza dell'antenna, Vediamo, lo chiediamo a questo uomo che ci abbiamo qua, tu lo sai dove è? Lo so. La Mantova 1 parte da 26 a 28 mi pare. La 5 più o meno siamo lì, forse qualcosa in più. E la Turbo invece parte da 25 a 30. Bravissimo. Però per noi Massimiliano, cioè uno che si piazza una Mantova Turbo, che non la usa a livello amatoriale come verticale, sì, la puoi usare in 10 metri, va bene, ok, con la correttore usi 10 metri, va bene, però anche la Mantova 1 e la Mantova 5 e 10 metri vanno bene a livello di verticale, quindi non è che cambia molto, perciò, però come robustezza, sono molto più robuste la 1 e la 5, perché l'antenna è uguale, il problema dei radiali, quindi il piano di massa della Mantova Turbo, è una cosa esagerata anche perché è fatto con un sistema molto debole, l'alluminio è debolissimo, bastano un paio di piccioni che si siedono una o due volte, come spiccano il volo, che hanno il colpo con i piedi, ti fasciano il radiale, invece quello là non si sfascia, flette, ma non si sfascia, hai capito la differenza? È molto più durativa la 1 e la 5 rispetto alla turbo, io te lo dico per esperienza vissuta, poi è chiaro che ognuno fa quello che le piace, come caratteristiche alla 1 e alla 5 la turbo non le fa niente, né come ricezione né come trasmissione. No, sono precisi proprio, anche la turbo è uguale, l'unica cosa che la 1 e la 5 fa 26, 28, quasi 29, là. E la turbo fa 25 e 30, tutto lì è il coso, ma hanno lo stesso guadagno, capito? sotto la turbo è fatta con un sistema tipo di piattello che è una mezza cagata. Là. E lì il problema, se avessero fatto Massimiliano, i radiali innesto dentro come sono innestati nella mantovolo, nella mantova 5, secondo me il sistema era molto più efficace, insomma, durava molto di più. Invece questo piattello che già sprechi 10 centimetri di netto, e poi c'è questa vite che avvita sotto, lo indebolisci la via, lo indebolisci, capito? Non mi piace, a me è un sistema che non mi piace, tanto è vero che io c'era la turbo, è capitato che in magazzino c'era la Mantova 1, perché l'ho presa direttamente in continente, solamente un camionista, okay, che si trovava lì, me l'ha portata lui, l'ho pagata 90 euro nuova, la Mantova 1 nuova, residuo di magazzino, perché non c'erano altre, c'erano tutte le turbo, le 5, c'era una 1, mi sono fatto mandare la 1. E io lo stesso, quando l'ho presa 15 anni fa, o 13 anni fa, tutti, ma prendi la 5, prendi la turbo, prendi la 5, io l'ho fissato, la 1 e la 1 ho preso, me lo ricordo sempre, ho pagato 72 euro più 12 di spedizione. E perché se vuoi comprarla qua, 130 euro vogliono, te la ordinano, te la vai, ne arrivi, 130 euro. Io l'ho pagata direttamente a Mantova, portata giù sopra, dentro un articolato, e me la porta anche, capito? La giù pagata 90 euro, anzi la verità 85 euro l'ho pagata, non 90, 85 euro. Vabbè, ma se Eugenio le piazzano, se le danno la 5 è buonissimo, là. Ma Eugenio, poi quando regalata o la 1, la 5, la turbo va bene lo stesso. Io l'unico consiglio che ti do, visto che la devi montare, sollevalo il più possibile, 7 kg, l'antenna pesa 7 kg, però se tu la monti come c'è montata quella lì, è come che si sta subendo a capo a terra. Capito, tu devi trovarti un palo che sia almeno da dove sta fatto, almeno 5 metri, che sia a cavallo. Ma puoi fare anche 3 quarti, un pollice, uno dentro l'altro, capito? Sì, perché diciamo che come sei montato tu adesso sei molto basso, troppo basso dal piano del tetto, capito? Sei troppo basso. E infatti la giovizzo è tutta canta mugiata. Ma è così come la piazza, va bene, capito? Oh, però una volta che la stai mettendo, poi tu, una volta che la metti, quella non la tocchi più, la tari bene, non la tocchi più. Un attimo che chiamo mia moglie, riprendi? Scusate che stavo parlando con l'aria, mentre è già 7:30, quindi il cane lo porterei e io posso rimanere qua. Là. Sì, ma è così mio, oggi, capito? No? Una bellissima antenna la 5, ma anche la turbo, insomma, forse da te resiste di più, magari perché è più bassa, sei un po' più a ridosso, ma qua 40 metri d'altezza, io ho provato due volte a mettere la turbo, non c'è stato niente da fare, in giro di poco tempo ho perso tutti i radiali e quindi ho messo la 1, ripeto, la 1 da quando l'ho comprata è nuova come il giorno che l'ho messa, senza nessun problema, e non lo so, oggi questo, ti ripeto, da vedere, però in caso, insomma, da una parte o dall'altra sono delle ottime antenne. Vabbè, tu l'importante è che l'abbiate da lui. Ma chi? Ma visto che tu sei a casa, lo chiami e metti la video. Beh, non puoi andare tu a prendertela, non puoi mettere sera. Appagappa, va bene. Vediamo un po' se c'è Gianni, Natalino. Gianni è al telefono, Natalino dovrebbe essere qua, Natalino. Sono tutti con la Resci, con l'Ubero. Non so cosa stanno facendo. Io qua sogno. Comunque dai, oggi quando ti fai vedere dal dottore, mettiti 50 euro in tasca e ti porto una cosa, va. Sì, ma tanto la dati sul papiscia, quindi cosa devi fare? Ti faccio provare una cosa che non hai provato. Gappa. Natalia, lo intende il suo? No, non lo so, sì. Se sta facendo tipo un film di arte. Sì. Allora, ciao, io è mola che sto mangiando a casa, io riprendi. Non c'è mangiare, c'è un bugio di nome, c'è che ci stai ascoltando a voi, sì. Io mi ho scolato i merluzzi adesso. Dopo ci metto un po' di olio d'oliva, gli apprezzemolo, un po' di limone. No, e tu ti li mangi? Ma come fai? Li sciucchi? E allora? Li ho già io. Anche la spina, quella centrale, ci passa. Ma cucuri, non ne hai da parte? No, ci sono andato, Claudio, ma secondo te me li bisognerebbe 4,5. Di Manzano e il sabato e domenica me li preso 4,5, ma sono rimasto. Sì, tu sei Anna, che mi ha telefonato, che ha comprato le favette fresche, che mi piace comprare un po', cioè mangiamo gascetto. Ha detto, guarda, se ci sono mozzette, prendimi un po' di mozzette. E adesso guardo, siamo seduti in freccia. Mozzette a livello della ragosta, 20 euro al chilo. Eia, costano così, costano un bel. Se tu accettare, non hai comprato tutti lì. No, qui con 22 euro ti escono 2 kg di carne a cavallo. No, non c'è poco, non c'è niente da mangiare, giusto lì, avevo voglia, ho detto prendimi. A 22 euro non si dà poco. Un po' di mozzette, non marcucci. No, ma come io questa non ho assaggiato niente. L'anno scorso ne avevo un po' perché nella mia zona ci sono colleghi che li fanno, che un po' preso poi si riprendono, capito? E quindi li avevo presi, già pronti. Pronti a mangiare, già pronti a mangiare. Quest'anno nulla, niente. Vabbè, no, tra poco mi hanno messa nel giugno. Era un periodo della giubbita, vuol dire che la mangiare della giubbita. Qualche domenica mattina che non stai lavorando, ci organizziamo, scendiamo a Cioca e seguiamo la magnata. Via, via, sì. Kappa, va bene, vediamo di nuovo Gianni. È passato il tempo dei ricci. Ma si vedete, ci è fatto due ricci, ci siamo aprile, il tempo dei ricci. Hai fatto due ghiette di vala, sai che l'epoca mai, ma si vedete. Marzo, aprile, è buono per i ricci. Anche aprile, con questo tempo anche aprile, che cammina e mangia, che è sempre la maestrale, la maestrata che ha fatto la carica, il caro, il ponente, l'ervante. Certo, se fa 2-3 settimane di libeccio, non si inviuta, ma se c'è vento già cammina, aprile è ancora buono. Mi sono stato vendendo l'altro giorno lì a Marrizza. Ti venire una bestia, le pieni pieni. Ma tu ci vai a farli oggi? Che ha pagato. No, io quest'anno non ho mangiato nulla. Comunque, è il tempo dei ricci, proprio il tempo, è fine novembre, tutto dicembre, per essere proprio quello doc. No, con questo tempo li trovi pieni ancora. Il riccio lo sai cosa fa? Non è che non ce l'hanno oggi, quelli che ci sono, il riccio diventa dolce, capito? E non serve, capito? È tutto lì il problema, non è? Se tu vai dove ci sono ricci adesso, ti ne vai una bella bacinella, sono ancora buoni. Tutti i mesi con la R sono buoni i ricci. E per me una gazzata, io li ho mangiati anche, per farti capire, li ho mangiati anche a metà maggio e stavo iniziando a essere dolciastri, mi capito? Il riccio è sempre buono, non è che l'estate non serve. E io, per quello te lo sto dicendo. Loro dicono il mese con la R, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile. Questi sono il tempo del riccio, così si dice. Vabbè, io invece mi faccio le pattelle che sono buone sempre. Non ha mesi, chissà. Avanti, là. Chissà, farò mesi che andrò a farla. La pagliaria cufara. Claudio, molla che tu mangia, e no. Va bene. Avanti, Natalino. Stavo mettendo il guinzaglio a Pippo. Cos'è? Stavo mettendo il guinzaglio a Pippo. Guarda che io adesso vado fuori, dopo una bella pipetta. Mi preparo questo pesce e iniziamo a mettere qualcosa nei fornelli, anche se no l'obbi la cosa è amara ultima. Da signori io vi saluto a tutti, Eugenio, Claudio, Natalino, Gianni e chi fosse in ascolto. Lascio tutto acceso qua, però non riprendo più, eh. Vi saluto, una buona serata. Gappa gappa. Adesso mi metto a cucinare anch'io. Gappa, va bene, quindi dove siamo? Qua siamo. 5705000. Ecco qua, che ha saltato l'ingresso. Ciao Massimi, ciao, alle prossime, te ne dico conto. Io come sto? quindi ai fornelli stai andando? Ai fornelli? Cosa buona? Vai, vai, buon cuore, vai. Vabbè. Vabbè, brittella. Aspettando, come te, la gattarella piena, vai. No, la tapparetta ho riparato. La tapparetta? Vabbè, no, io mi sono buttato d'olio, ma ci ho pegato un misurì. Ah? Mi sono buttato d'olio, ma ci ho pegato un misurì. Ma tu è... antibiotico, ma tre miliardi. No, non ne avevo. Non è farmacia, capito? Dopo riesci alle farmacia, non lo dico. Ah, è farmacia? Farmacia, sì. Alle farmacia, non lo dico. Cosa hai detto, Eugenio? Si dice nimisurite, ma la chirurgia chiama misuri, tanto lo dico pure io, forse è più efficace. Certo, nimisurite si chiama. Va bene, va bene. Poi se hai mal di testa ti prendono una tachipirina, se ti serve un palo idraulico invece telescopico ti va di Lucca. E tu sei stato avventato. C'era un periodo che c'era da scrivere un libro che, con tutti i gaggati che si intendiano. Oh, Antonietta, sei contento di sposare a Franceschino? E da bascia rugabo, di signor sì. Ma di no, sì, Franceschino, vedo bene. Antonietta, sei contento, un regalo por da te. Quattro vittà di Maria di 33, a me c'era poco la cultura. Ma è vero? Ai, uomane. Ragazzi, sta ascoltando la giornata però. Non so voi, ma io vedo non so che acqua. A così domani mi butti. E sono un passo bravo domani. Tra visite, tricche e ballate, domani c'è un roba poco. Se piove però mi si girano i camasicchi. Si dice camasisi. Ai, camasisi. Alla monta al mare oggi, ah, quanto mi fa stare di chi medico che... grandissimo cornuto. Chi è siciliano? Oh, aspetta, c'è un cognato io siciliano. Mia moglie ha abitato 30 anni in Sicilia, ma mia moglie, mia sorella, adesso abita in Alghero. Quindi. Lo conosco il siciliano. Conosco, conosco. Di Catania è, mia sorella a Palermo era, capito mi hai? Via, via, mi sicuro, mi sono fatto il balavo di Natalino, via, via, non te ne dico, sembrano parole normali, ma giù, giù. Sì, un grandissimo corruto, Montalbano. E fai tutta, si chiudono tutti. Cuocuomale, sì, cuocuomale. Natali, e se no mi si vuoi il fiotto qui i piantoni, sant'Antonio, io, capisci come va a dire, le lacrime mi vengono quando fa vita. Esatto. Il settore mi scusasse. Caldarella. Grazie per fare Maurizio, mai così simpio, grazie Maria, e se no che non fa vita. C'è la signora per lei, per Moscia, gli ho detto che cazzo si compra in un anno, va bene. È un bravissimo attore quello, bravissimo attore. L'ho intervistato, ah, benissimo da poco. E lei così, mi fa veda così me oggi, così fa veda. No, l'accento così, parla così, capito? No, certo, parla meglio, no, parla bene. Però è molto comico, ragazzi. Io sono mai vado a venire. Assolutamente. Dottore mi scusasse, a faccia mi si tirò la porta, cazzo di questa cabriaiana, mi si curi a capo, non ti compresi perché ti vado a entrare. Sì, sì, sì, fanno così, fanno, un bella matti, in via Orto bene addirittura, vabbè, vuol dire che è un'immondezza. Avete fatto diventare un personaggio. Se quello non lo mantieni, avete c'è quella corda per aprire, basculante, eccetera. Se ci mette la testa e ti cade qualcosa sopra, ti dice che la mola di un gut. Allora. Attento Marco Condor, ratta pignara, pinnuto che te vegani. Corra a Platamone è andato pure ultimo, Natali. Cesso, non sa stare se non va a Platamone. Doppio room, niente sai tu di ratta pignara. Gianni, doppio room, stasera poi si assente, un po' entri, un po' stai zitto, cosa c'è? Cosa c'è? Gianni, fa ripo che... Allora, o cuovane, cosa mi racconti? Chi io? E allora? Ah, niente di che. Oggi mi sono fatto la mia giornatina, cla. Ma niente di... niente di particolare. Lo so. Io dicevo, volete sbarcellona, è 5. Allucinante siete allucinanti. Devo prendere la partita e alla fine ho dovuto cambiare perché mi stavo incazzando, io me le guardo tutte. Siete andati a Pellico, l'ultima classifica. Oh, ma si può mangiare adesso? Tanto mio. Allucinante del succedente. Siamo in mani delinquenti. Delinquenti. Eliminate un giro, non ho capito che mi sono distratto. Eliminate? Io ce l'ho. Ho preso 5 litri, ne avrò ancora 3 litri, però oggi non ne posso bere, domani ce le viste mediche. Capito? Se no porto le urine, è troppo scure e il medico mi dice cosa. No, io ho 2 bicchieri a pranzo e 2 a cena me li faccio, deve essere buono, però fuori non bevo niente. A casa non bevo il vino mangiato, 2 bicchieri a pranzo, 2 a cena. E da ieri e oggi non ne ho toccato niente. L'avevo comprato, capito? A Usi, un collega di Usi me l'ha portato, buono, buonissimo, però non l'ho voluto toccare perché domani c'ho le visite mediche. Voleva gazzata, voleva Coca-Cola, ma se non ti ha giudito uno B, magari ti bevi una birretta ogni tanto, ma io te lo sto dicendo. Cenando o a pranzo il mio bicchierino di vino me lo faccio, che sia bianco, che sia rosso, quanto sia buono. Poi tutto fuori, come ti voglio bere io in macchina, nella furgonetta di lavoro c'ho un bricchi da 12 di acqua, quella piccolina, e sto sempre bevendo acqua. Se ore 40, ne posso 2, 3, anche 4 bottigliette, dipende. C'è credo che quando è l'altra mattina, domenica mattina, ho lavorato, siccome è l'unico bar aperto per fare colazione al ginepro, no? Quello che c'è, uscite via l'Italia, c'è sia rete, c'è tutto, e apre alle 6, tutti i giorni apre alle 6, vado tutti i giorni lì a fare colazione. Domenica mattina sono arrivato alle 6:20, quasi le 6:30, 6:25, tanto che dovevo tirare alle 7, già ce la faccio essere, sono andato un po' più tardi. Come entro non chiedo niente, io sanno già quello che prendo, mi prendo la pasta, loro mi preparano un caffè macchiato, eccetera, era mezza gazzata. A fianco a me, era uno a Regie e Viti di Manzano, una datta di Giamucca Biera. Gli ho detto molto educatamente, non si offenda, se gentilmente si sposta, mi stava nauseando, Regia, mi credi, mi stava nauseando. Ma vedi la vecchia Romagna, lo stravecchio, un bebino, non mi dà fastidio se sia a fianco che lo bevi, ma la Giambuca mi nausea, si sente anche quando hai finito di berla che lasci il bicchiere sopra il bancone. Assolutamente una cosa proprio nauseante, Regia e 25 di Manzano, perché sto a metterti quella roba in corpo? Per carità di Dio, non esiste, ma stai scherzando. E ammazzati con le mani due, qualcosa dolce lì, ui, io ti guardo, detto, per carità, ucci. Infatti io ho detto, Tom, mi scusi, mi dà fastidio, ho trovato una scusa, sono galleggio quasi, mi sa se riesco. Sulla legge, mi si fa la cortesia, si sposta leggermente, mi stava nauseando, mamma mia, una puzza, per carità, un fiago, pucci. Infatti stamattina, quando sono arrivato, alle 6:15, c'è la barista, ho detto, signor Carlo, stia fermo, intanto non c'è nessuno che sta prendendo Giambuca. Notami, puzziosa che... No, guarda, io non sono bevitore superalcolici, caro mio, ti stai sbagliando forte. Io ho sempre bevuto anche fuori dai pasti, io ho sempre vino, uno sfumantino, se è giornata, un rosso se è buono, ma come aperitivo non si sta di rimanzare, capito? Quindi da mezzogiorno e mezza in poi. Ok, qui, sempre, sempre, e lo sto continuando a fare da sempre, sempre vino rosso, io non bevo Campari, non bevo super quelle cose così, niente. Mi è sempre piaciuto il Martini, però ti posso dire che una volta mi ha fatto mal di testa, non ne ho più bevuto. Quindi io, un digestivo, ma non sempre, perché anche l'altro giorno siamo andati a mangiare la pizza, abbiamo preso tutti il Montenegro. Leggero, non è una cosa, ma un bicchierino proprio piccolino, giusto così, capito? Ma no, chissà cosa. C'è un collega, lo stesso, che adesso, figurati che è una malattia già sei mesi. Ma la mattina presto è andato a bere, ma no, uno, 7, 8, 20, capito? Allucinante, a volte diceva, mi stai facendo schifo. No, io non sono come, mi stai facendo schifo, vai lì, non sta vicino a me, mi sembra di schifo. Ma che gusto c'è, non ho capito, baffa cosa. Ma non è meglio un bicchiere di vino buono? Io d'estate, ma ci deve essere caldo, una berretta me la faccio, capito? Se no mi guerra. Che se so bere un baby ghiacciato, una sambuca ghiacciata, a cosa sirvi? No, non sono amante, ma io non bevo roba gasata, io acqua naturale, qualche volta l'acqua San Martino, ma proprio ci deve essere il petto caldo, roba gasata, io roba gasata non bevo, ed è per quello che non ho, non sono molto gonfio come pancia, capito? Proprio perché non bevo roba gasata, assolutamente, bevo acqua naturale. E poi ti ripeto del vino mangiando, se poi capita che sono fuori, allora di pranzo e tutti, è un Camparino, infatti un Camparino, vai dammi un vinello buono e basta, capito? E vabbè, è uscire, comunque, non mi dica niente, mi vuole dire, la mattina presto non ci si può buttare in corpo una cosa del genere, perché è veramente impressionante. Ma non va bene, ha detto che mi era bello città di mare, ce l'ho a Fidillo. Ehi, Tattalino, si è Fornelli? Vabbè, abusivi. Ehi, perché non entri all'8:30, Neso Gandendi? Entra all'8:30. Ehi, sai cos'è? Mi stavo guardando Bonolis, quel programma qui, c'è, è divertente. Ah, ci sono gli extraterrestri, le ratte pignare, quello stavi guardando. Ehi, poi piglia il giro molto. È uno sfottò sottile Bonolis, capito? Non offende, certo, però bello, dai. E oggi c'avevo male alle ginocchia, male alle gambe proprio, non sono uscito, non avevo voglia nemmeno di parlare, la verità, al baracchino, quindi già mi rifaccio domani. Oggi missa, non ci sono film belli, mi guardo la partita, così pindaccio. Pindaccia. Guffaremi? Vabbè, ciao a tutti, ciao anche a Eugenio, stavo per dire Benito, no, cioè, questa volta c'ho, mi è venuto già bene. Natalino sta cucinando? Vabbè, a mettere il giornale iniziato. Ribuonasera a tutti, dai, a domani sarà un altro giorno, ciao. Oh, per un saluto, c'è il telegiornale, dai, voglio seguirlo. Ciao a tutti, dai, ciao Claudio, ciao Eugenio, Natalino, tutti quelli ascolti, tutti. Ciao a tutti. Ciao, bello, beh, ciao. E io per 5 minuti e poi me ne vado anch'io, che do la mano in cucina, che c'ho gente a cena, e poi ci guardiamo la partita. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ci sentiamo domani, dai, stessa ora, stesso canale, siamo già in 30, ciao. Ciao Valè, che vado a dare una mano, sono già le 8 e poi mi siedo a rilassarmi. Un abbraccio a tutti, a domani, ciao, passo e chiudo.